Tu sai capire che provo, Sven, ma io non so farlo. È forte davvero, è un amore sincero. E il cuore, Christophe, devi ascoltare.